Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a tutti da Maurizio Melis, 50ª puntata di Mr. Kilowatt, la dedichiamo all'informatica che ormai è dappertutto, è tra computer, monitor, stampanti, scanner, insomma chi più ne ha più ne metta, inghiotte quasi l'8% dell'energia elettrica prodotta in Europa, mentre si ritiene che da qui al 2020 si toccherà quota 10% e forse anche qualcosa di più. Mr. Kilowatt intende dedicare alcune puntate al risparmio energetico e alle tecnologie informatiche. Vedremo in seguito, nelle prossime puntate, come l'informatica possa essere applicata al risparmio energetico, consentendo, grazie a una gestione più razionale ed efficiente dell'energia, appunto di risparmiarne parecchia in molti ambiti. Stasera però ci concentriamo strettamente sui consumi dovuti alle apparecchiature informatiche, vedendo, cercando di capire come tenerli sotto controllo. Ne parliamo con Diego Ragazzi, responsabile Green ICT di Cefriel, ovvero il centro di ricerca e formazione ICT del Politecnico di Milano. Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Le faccio subito una domanda. Quanto va in calcolo dell'energia consumata e quanto invece va in altre forme? Sì, questa è una domanda molto interessante. Dipende ovviamente da come si definisce il calcolo, ma la risposta è comunque una percentuale molto bassa. Può andare da un watt, per esempio, effettivamente usato per il calcolo, rispetto a 500 watt prodotti a monte, quindi lungo tutta la catena, dalla generazione dell'energia alla distribuzione, all'ingresso dell'energia nel computer, al calcolo vero e proprio, si perdono circa 499 watt su 500. E questo in un contesto in cui le tecnologie informatiche stanno dilagando. E questo giustamente in un contesto in cui le tecnologie informatiche stanno dilagando. Diciamo subito una cosa, noi informatici siamo molto bravi ad autocelebrarci, a dire che il nostro è un mondo immateriale, che non è pesante, che consuma poco, però in realtà il mondo immateriale dell'informatica ha delle radici molto solide nel mondo reale. Immateriale, certo. Esattamente. Ci sono dei dati veramente molto interessanti. L'informatica ha avuto dei progressi straordinari rispetto ad altri settori, se consideriamo che 50 anni fa i primi hard disk commerciali di IBM erano dei mostri da una tonnellata che consumavano centinaia di kilowatt, ad oggi che abbiamo delle memorie che consumano sostanzialmente pochi milliwatt, certo, e hanno gigabyte di spazio. Sì, sì, sì. Quindi da un certo punto di vista uno potrebbe dire il settore ICT è veramente messo molto bene. In realtà, se poi guardiamo le previsioni dei trend sui consumi globali, scopriamo che i consumi dell'ICT sono destinati a crescere, certo, sono destinati a crescere molto. Questo è dovuto al fatto, ovviamente, che l'ICT è una tecnologia pervasiva che si moltiplica in miliardi di piccolissimi device e dispositivi che poi effettivamente sommano. Quindi abbiamo una moltiplicazione dei dispositivi e abbiamo anche una moltiplicazione delle funzioni che questi dispositivi svolgono. Quindi, perché la grafica avanza tutto. Insomma. Esattamente. Senta, allora, come si fa a cercare di contenere i consumi? Intanto non tutte le apparecchiature consumano allo stesso modo, quindi un computer tradizionale consuma di più di un portatile, uno schermo a raggi catodici consuma di più di uno schermo a cristalli liquidi, quindi selezionare il prodotto che consuma meno, ma poi soprattutto usarlo quando veramente serve e spegnerlo quando non serve. Forse non tutti sanno che quando noi spegniamo il computer con il tasto di shutdown, in realtà il computer continua a consumare. Continua a consumare il trasformatore che è collegato alla presa di corrente, continua a consumare per una serie di funzionalità di standby. E questo comportamento non riguarda solo il computer, ma tutte le periferiche del computer? Assolutamente, tutte le periferiche, addirittura anche altri dispositivi come i telefonini, le televisioni e qualsiasi dispositivo elettronico in generale può avere questo problema. Certo, il problema dello standby che noi qui a Mr. Kilowatt abbiamo già affrontato. Ecco, oltre a scommettere sull'hardware, cioè un hardware che consumi di meno, ci sono delle altre strategie che si possono quindi applicare? Abbiamo detto di spegnere, ma se uno ha un ufficio con 50 computer? Ecco, in questo caso esistono delle soluzioni che più o meno intelligenti possono spegnere in un colpo solo tutte le periferiche di un ufficio, ma anche di un'abitazione. Sono chiamate per esempio ciabatte intelligenti o smart socket, e sono dei dispositivi che consentono di spegnere realmente in un colpo solo una molteplicità di computer o di dispositivi elettronici. Va bene, grazie Diego Ragazzi. Grazie a voi, buona serata. Qualche piccolo suggerimento per concludere. A proposito di ciabatte, se ne trovano in commercio dotate di una presa master e più prese slave. Quando il dispositivo collegato alla presa master viene spento, tipicamente nel nostro caso si tratterà del computer, tutti i dispositivi collegati alle prese slave, come stampanti oppure altre periferiche, vengono disattivati. È una buona strategia da adottare anche con il televisore, che ormai ha numerosi apparecchi collegati. Ci sono anche poi computer che hanno proprio un microprocessore che consuma meno. Noi ci sentiamo domani, parleremo di una nuova tecnologia made in Italy, il cappotto attivo, che oltre a isolare gli edifici può riscaldarli e raffreddarli. Buona serata.